Pochi giorni fa a Roma è stato battezzato il Comitato Italiano per il ritiro immediato delle nostre truppe dall'Iraq. Nato a Firenze il 4 aprile, è stato presentato da 100 dei Verdi e da alcuni esponenti di Rifondazione, della Sinistra DS e dei Comunisti Italiani. Il Comitato, appena nato, ha le idee ben chiare. Dal 25 aprile farà circolare una petizione rivolta alle massime autorità dello Stato per chiedere il ritiro del nostro contingente e la conversione delle spese militari in interventi sociali. L'obiettivo è quello di raccogliere 803.000 firme, 1.000 per ogni deputato o senatore che non si è opposto alla nostra presenza in Iraq. Già, le spese militari. Secondo il neonato comitato, per il 2004 il nostro governo ha già stanziato 532 milioni di euro per le missioni militari all'estero, 220 dei quali solo per l'Iraq. E l'Iraq è proprio il paese dove il nostro contingente pochi giorni fa è stato costretto, dicono, ad uccidere donne e bambini per ristabilire l'ordine politico. Se questa non è guerra. L'intervento di pace altro non è che un quadro dantesco di morte e di distruzione, di assalti alla popolazione civile che è l'unica vittima di questa guerra, di saccheggi spavaldi. La ricostruzione sarà un affare di miliardi di dollari e il governo italiano spera di accaparrarsi qualche briciola. Benché sia difficile crederlo, all'oscuro del fatto che i contratti per la ricostruzione erano già stati chiusi 36 giorni prima dell'inizio vero della guerra. Quindi tutto ciò che il Comitato chiede, visto che questa è guerra e visto soprattutto che il nostro Paese, per il dettato costituzionale, ripudia la guerra come strumento per mettere fine alle controversie internazionali, tutto ciò che il Comitato chiede è che le nostre truppe vadano via dall'Iraq e da tutte le zone di guerra del mondo. Il Comitato poi, nella manifestazione del 25 aprile e continuando nelle manifestazioni nazionali dal 2 giugno in poi, farà circolare questa petizione, credendo e essendo fortemente convinto di far da megafono a milioni di italiani che, così come il Comitato, vogliono che il nostro contingente e i nostri soldati vadano via da quella terra martoriata. Denis Faticante, reporter associati per Amisnet.